Due battute anche con Roberta Licalzi, assessore allo sport del Comune di Bologna, per parlare della serata che si terrà giovedì 14 settembre alle 20:30 al Teatro Comunale Novò. Sì, è una serata che ci siamo inventati insieme a Fondazione Entroterre con la collaborazione del Teatro Comunale, che ringrazio proprio come evento nuovo nel panorama della nostra città per unire le voci di sport, musica, spettacolo e teatro, e unirle proprio per dare maggiore forza a quei valori condivisi che contraddistinguono questa città per creare ancora di più una cultura diffusa di comunità. E i valori sono l'emancipazione femminile nelle sue varie forme, anche attraverso lo sport, i diritti, l'inclusione. Sarà un evento gratuito per permettere a tutte e tutti di accedere a questa serata e di godersi un momento di festa, perché questo sarà la festa dei valori, per vincere insieme quelle sfide che ancora ci sono da vincere nel nostro paese, ma anche nella nostra città, e per creare un valore aggiunto proprio nella cittadinanza. E poi sarà un evento accessibile, mediante la traduzione LIS della serata, e anche accessibile ovviamente dal punto di vista strutturale per persone con disabilità fisiche. Il tutto grazie anche all'impegno di grandi testimoni, ospiti d'onore d'eccezione meravigliosi, e a uno spettacolo di teatro che comporrà la seconda parte, con un titolo ironico, irriverente, No Wax, il calcio non è uno sport per signorine, proprio per raccontare quanta strada ci sia ancora da fare sull'emancipazione femminile attraverso lo sport. A Bologna siamo pronti a raccogliere queste sfide e a fare questa strada insieme. Perfetto, ti vorrei chiedere anche le presenze sportive che saranno al talk show introduttivo. Beh, ci sarà Paola Paggi, la campionessa di quella squadra meravigliosa della nazionale di pallavolo femminile che nel 2002 vinse l'oro ai campionati mondiali, che ad oggi è l'unico oro conquistato ai mondiali della nostra nazionale, e Eva Ceccatelli, che è un'atleta di sitting volley, quindi una specialità paralimpica, e quindi ci porteranno le loro testimonianze di atlete, di donne e di persone impegnate nei valori condivisi che trasmetteremo quella sera. Torno un attimo alla seconda parte invece della serata, sarà uno spettacolo. Sarà uno spettacolo di teatro a tutti gli effetti, e per me, che per moltissimo tempo, 28 anni di carriera, ho fatto la calciatrice, sarà anche un momento particolare ripercorrere le tante battaglie che come calciatrici in questo paese abbiamo fatto, portando qualche conquista allo sport femminile, al professionismo sportivo femminile in questo paese. Perfetto, ti ringrazio molto. Grazie a voi.